Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento e intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. A volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Oggi è una giornata particolare. C'è un punto di luce molto ambiguo. E ambiguo è il clima che respiro su questo scompartimento. Ho visto in lontananza, con sicurezza, ma man mano che mi avvicino c'è conferma questa mia sicurezza, la ragazza con la chitarra. La compagna di mille viaggi e di mille confidenze. La ragazza con la chitarra schitarrata. Appena ceduto il suo strumento a un ragazzo. Carino, scuro, taglio meridionale. E lui strimpella davanti a lei, lo guarda inebetita e si confonde nello sguardo di questo ragazzo che in realtà nemmeno la guarda. Non posso che intrufolarmi in questo incipit di storia amorosa consumata lungo i binari. Sei portata l'accompagnatore oggi? Veramente l'ho appena conosciuto. Ma la chitarra è sua o tua? No, è mia, ma io l'ho prestata perché io allora ero entrata in treno con la chitarra e... Finalmente qualcuno ti ha detto... Finalmente qualcuno ha visto la chitarra. Dammela. La chitarra, infatti, sì. E io gliel'ho data, la chitarra e... Non c'è pure te la scorda, te la rovina? No, perché lo vedo, lo posso controllare. Ma tu suonavi già la chitarra o... Stai improvvisando per... No, suonavo già la chitarra. No, e poi appunto sta suonando. Poi prima che arrivassi te stava suonando e suona molto bravo, molto bravo. Grazie. No, finalmente vedo in diretta il coronamento del tuo sogno. Sì. Hai trovato un uomo? Ho trovato un uomo che suona la chitarra. Vediamo se poi ha trovato un uomo. Vabbè, carino, c'è la tua stessa età più o meno. Sì. Finalmente. Quindi è vero che lo strumento musicale induce alla relazione? Sono quelli che viaggiano col violoncello, col tamburello, col piffero. E tu hai viaggiato con la chitarra e finalmente hai trovato un uomo. Sì, ho trovato un uomo. Sì, ma chiediamo a lui. Normalmente, no, adesso lo chiedo a lui, mi interessa te. Normalmente sono gli uomini che cercano l'abbordaggio con la chitarra. Vabbè, ho capito. La chitarra è un po' come il cane. Se te lo porti appresso e trovi qualcuno che è affino, oh, che bel cane, guarda. È un po' come la chitarra, nel senso che o sei indifferente alle persone oppure... subito attiri l'attenzione. E la prima volta qualcuno ti chiede di suonare la tua chitarra? No, però è la prima volta che io do a qualcuno la mia chitarra da suonare. Sono lusingato allora a questo punto. Te l'ha data subito appena gliel'hai chiesto? Sì. Ma tu la stavi adocchiando? No, perché io questa ragazza la seguo da settimane, ogni tanto la vedo, le sue avventure. Non ho mai avuto una prova così evidente e palese del fatto che la ragazza con la chitarra finalmente ha avuto il suo successo. Ma l'avevi sentito parlare o l'hai conosciuta adesso? No, l'ho conosciuta adesso. Quindi... Però avevo sentito qualcosa. Ma come ti è venuto in mente di chiedergli la chitarra? Beh, perché comunque la chitarra è come un po' il pallone, no? Cioè, ma ancora le vostre generazioni, questo accadeva negli anni 60. Ma anche 70. Adesso, però è diventato più di nicchia. Cioè, solo per pochi. Tu suoni la chitarra? Certo. Tu da dove vieni? Io da Bari. Vieni da Bari, te ne stai andando verso il favoloso nord. Esatto. Cerca di fortuna. Esatto. Suonando la chitarra. Esatto. Però non c'avevi nemmeno la chitarra. Oggetti di fortuna si trovano in mezzo alla strada. Poi incontri persone e da lì la chitarra è un input per... Ma saresti capace di improvvisare? Adesso dico qualcosa, lei lo canta e tu lo suoni. Ce la fareste? Adesso sì. No, tanto forse siamo soli oggi. Sì, non c'è nessuno. Forse sì. Cioè... Cosa potresti cantare che lo suona? Adesso vedi questa timidezza. No, non abbiamo ancora testato. Stiamo regalando al mondo il coronamento di un tuo sogno di mesi. Che mi parli, sì, che giri con sta chitarra. Il fidanzato aveva lasciato, l'altro faccio che era tutto fuggito. Da sola. Adesso sono sola, canto da sola. Dai, prova che sei brava. Che dici? E come lo vuoi? il ritmo. Tutto rigorosamente. Io inizio a cantare in diretta. E tu suoni. Va bene, il giro è quello. Sì. Compartimento di un treno lanciato verso il nord, sì, Italia. Deve essere quello. Un giovane non del va sud bene. Che viene da Bari in cerca di fortuna incontra la ragazza. Proviamo. Con la chitarra. Le domanda un giro vita. Lei è titubante. Poi fammi un po' la prima, il primo accordo. Si concede. Sono la prima. I've been spending way too long to keep my tongue. Proviamo. Però devi farlo più lento. Dai. I've been spending way too long to keep my tongue in the mirror, bending over backward just to try to see clearer, but my back fell out to glass, so I drew a new face and I'm left. I guess what I be say is there ain't no better reason to rid yourself in vanity and just go with the season. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I sta dimenando. Non so se dire. No, continua, io devo fare il commento, sennò pensano che è registrato. No, è tutto finto. This is our fate. I'm fa la faccia ispirata. To open up your eyes sul tavolino della like freccia me. Rossa. Open up your plans and then you're free. I look into your heart and you find. Si cominciano love, ad affacciare gli altri viaggiatori. Listen to the guardano music perplessi. Of the moment people dance and sing. We're just one big family. And this I got to stick around to be loved. Love, love, love, love, love. Adesso tenete la bassa, tu continua a suonare. Tu fermati un attimo, devo farti le domande. Perché guardavi il ragazzo con la chitarra con sguardo rapito mentre cantavi? No, dillo. Ci stai provando. Perché in questo momento noi stiamo in un mondo che, dove tu non puoi entrare. Vabbè, non posso entrare, no, io devo tenere comunque sono... l'idea che sto in un treno e parlo mezzo. Con voi. And I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ti è ancora con i genitori? L'hai mollati? Ecco, adesso mi casca tutto l'entusiasmo. Eh no, devo capire, ancora momento. Vivi con papà e mamma? Sì, Gianluca, non è che... Ma era passato un po' di tempo, avevi detto che avresti, sì. Ti saresti sforzato. Lavori adesso? Sì. In un albergo a ore, no? Mi sembra. Sì. E cosa fai? Oltre a portare il caffè a chi fa l'amore? No, davvero? Visione. Ma perché non sei contenta? Hai trovato un lavoro, perché non sei contenta? No, non è che non sono contenta, che impaurisce anche questa cosa, non il fatto di lavorare, il fatto comunque di avere un impegno a lunga scadenza. Benvenuta nel mondo di chi si guadagna il pane, scusa. Sì, ok, fino a qua ci siamo, però ogni tanto ti viene un pensiero e dici, ma quello che sto facendo... Sì. Mi fa felice, oltre al fatto che magari un giorno posso permettermi l'indipendenza, e quella sarebbe una grande cosa. Beh, oddio, mo c'è 40 anni, fra un po' è ora. Quanto hai? C'ho sempre 26 anni. 26 anni, vabbè, è ora di uscire 26, di casa. 26, sì. Beh, se tu avessi dei pargoli, mamma, hai portato il pane, e non ti porresti questo problema. Fortunata che ancora i soldini che guadagni li usi per comprarti le chitarre, per mandare la pizza con le amiche, perché... All'affitto, sì, sì, sì, sì, al vitto e all'alloggio ci pensa con papà e mamma. Sì, ecco, preferirei pensare anche io al vitto e all'alloggio e poi... Ma datti da fare allora, bene. Mi sto dando non da ti fare. Basta con le guadagni per l'autonomia? No. Quanto ci vorrebbe? Il doppio? No, forse il triplo. Non parliamo triplo. No, non voglio entrare. No, non in entro questo momento perché è uno stipendio provvisorio. Poi si vedrà. Vabbè, tanto già è uno stipendio. Se mi fanno un'offerta con cui riesco a vivere da sola, ben venga. Se no, magari mi troverò due occupazioni che mi permettono insieme. Poi tu sei una di... ragazza laureata, masterizzata. Usata. Beh, non voglio entrare nei particolari. Masterizzata. Provvederà il ragazzo con la chitarra a verificare. Quelli che puoi farli più volte. No, No, ti sei mantenuto... Il bello dell'umanità femminile è che è riscrivibile e sovrascrivibile. Grazie a Dio non lascia segno. Il primo passaggio, no? No, al di là, al contrario di altre cose, lascia segno. Cos'è che lascia segno? No, niente. Ma dimmi una cosa che lascia segno. Con una persona. Cosa lascia segno? Eh? Cos'è che lascia segno? Vabbè, le storie lasciano segno. Le storie, no? Bravo. Tu sei segnato. Grazie che mi sei salvando. Ma tu sei fuggito da Bari per una storia d'amore? Sì. No. Ma dai, ti la faccio parlare, sennò sono per trovare fortuna. Ma che non lasci nulla alle spalle? Beh, sì, storie, amicizie, esperienze, tracce che uno si porta poi con sé, no? Che quelle piante d'ulivo che avevi coltivato, era... no? Sì, anche il background. Ma posso culturale. Farti una domanda? Vai. Posso fargli una domanda? Sai, roba tua che c'è tu. Ma un uomo, no? Quando sì. finisce una relazione, poi oltre a lasciartela indietro, se la porta anche appresso, certo. si fa condizionare. Ti faccio un esempio: io avevo una relazione con una ragazza per 3 anni o quello che è. Magari è stato un grande amore, però per qualche motivo vi siete lasciati. Le tue storie future saranno condizionate da questa cosa, ovvero tu avrai paura a impegnarti per questa cosa o avrai il pensiero comunque di quella ragazza credendo che no, forse siamo destinati a insieme. Ma tu parli insieme. Di malattie tu... sessualmente trasmissibili? Cosa? No, sto parlando. Rispondi, no, penso che ogni storia, ognuno porta dentro di sé una traccia dell'altra persona con cui ha condiviso determinate però esperienze. La chiudi la porta. Certo, però okay. una qualità o comunque parti di quella persona ti rimangono dentro e diventano un tua parte del tuo carattere. No, quello va bene, però... Quindi ti crescono. No, scusa, ragazzo, la chitarra, stai parlando, quanti anni hai? 23. Stai parlando seriamente? No, sì. Scherzi, lo dici perché ci vuoi provare dopo. Cioè, tu dentro hai le tracce indelebili di storie che hai avuto. Beh, già, sì, cioè, non... sì, storie che magari... C'è questa sorta di rassegna di volti, questa l'ho amata, quest'altro l'ho amata. No, non in questo senso, in senso di, non lo so, anche parti di quella persona che ti porti dietro. Cioè, c'ha le unghie ancora infilate nella schiena. Sì. Che no, poi formano il tuo carattere. Ma formano il tuo carattere oppure ti formano anche, no, ti condizionano? Non ti devono condizionare, se no vuol dire che tu puoi conoscere non... un'altra persona, certo. vendere in testa un'altra, ovvio. Poi che fai? No, adesso no. posso fare domanda all'ex ragazza con la chitarra. Tu perché fai questa domanda al ragazzo con la chitarra? Per sapere se hai tracce di amori passati? Io mi faccio questa domanda per... O se tu hai lasciato magari tracce... anche per quello. Vabbè, quello sono fatti vostri, sono felice. No, sono fatto ruffiano alla fine del viaggio. Però, mi no, io faccio questa domanda perché la mia grande curiosità è questa. Finché tu nella testa hai una persona, è possibile conoscere un altro? No, assolutamente no. Sì, beh, se tu dici così allora non esisterebbe adulterio, non esisterebbe tradimento. Beh, non nel esisterebbe... mondo perfetto, sì. Vabbè, ma nel mondo normale uno può essere innamorato di una persona, gli piace, ne incontra l'altra, si fa venire uno sfizio, la frequenta, si fa togliere lo sfizio e ritorna da quella di prima, oppure lascia la prima e torna con la seconda, oppure ne trova una terza, lascia la prima e la seconda e va con la terza, oppure vive contemporaneamente. Prime, terze, non sono... Non c'è l'importante mica è fare qua. Quello che si vuole fare. Certo, poi, sì, vabbè. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Sì, ma la domanda che facevi al ragazzo con la chitarra presuppone una tua esperienza ancora sospesa. Tu vuoi sapere su un uomo che ti ha amato e non ti ama più, che tu ancora ami, ma in sé conserva l'abile traccia del tuo ricordo, perché un domani speri che riapra la porta. Sì, ma era più sì. anche su me stessa. Però speri era... che riapra la porta. Sì. Ma che ci fai con la minestra riscaldata? So. No, ma mi chiedo perché ancora vengono fuori queste cose, tipo dei lapsus, no? E... Perché ancora sono poche cose nel tuo firmamento che può essere infinito, e quindi quelle poche sembrano certo, tante. Certo, sono stelle che conosco, e anche se brillano di meno, però brillano comunque. Ma tu speri sempre che la stella caschi e ritorni nuovamente fra i tuoi piedi, ma che ci fai con una stella caduta? Ragazzo con la chitarra, ecco. Riconosci in questo profilo femminile che per un caso hai incontrato in questo vagone con un rompiscatole che vi... Non vi dà il sì, tempo nemmeno di conoscervi fino in fondo. Palo, ma fra un po' io scendo. E, vabbè, il palo. Dai, sto scherzando. Ah, questa bontà frase tua. A questo tipo di ragazza va solo detta: si chiude una porta, si apre un portone. Sì, tu sei un bel paraculo. Sì, anche. Hai capito perfettamente il soggetto. Ecco. Questa sì, cerca sì. l'amore, non cerca un'avventura. No, ma certo. Ma il senso di portone come avventura. Come, diciamo. Sì, amore... resta ancora uno strascico di un amore non risolto. Mi sembra di capire, poi confermerai te dell'esperienza. E ancora è così, non sa se lasciarsi andare. Dice: se mi lascio andare con il ragazzo con la chitarra, che è caruccio, simpatico, interessante, viene da Bari, quindi è quindi diciamo c'è qualcosa. Pure il mare bello, bravo, no, il mare bello. Estate. Ma figurati, le friselle, c'è tutto quello che uno vuole. Però dopo. Questo, se mi ritorna indietro quell'altro che mi ha mollato tempo fa, sarà 6 anni fa. Che faccio? Come scelgo? E per questo è vero ti poni questo problema? No, il problema era a priori, era finché tu hai in testa una persona sembra come se ci avessi i parocchi. Ma questo chi? Scusa, fammi capire, chi? A te? Sì, io, ma anche nelle esperienze che vedo delle ragazze d'età mia. Sì, sì, che hanno magari in testa una persona e... quanto siano in gamba, per quanto comunque vivano la loro vita, si precludono altre storie. Sì, ma non ce l'hanno proprio, perché magari dicono non c'è nessuno e poi va a finire sempre che ti incastrano nel discorso. Ma quello in testa, la parola in testa non esiste più, però o ancora una presenza reale? Sai, sono quelle persone che vagano, che le vedi che ogni tanto magari si fanno sentire e poi spariscono per 5 mesi. E te con quella chiamata ci vivi per 5 mesi. Povere però ragazze. Ci sono tante ragazze così, ci te lo dico, perché è una realtà. Perché i maschi dovrebbero essere un po' più sensibili in quel momento. Cioè, ti viene in mente quella persona, evita di chiamarla se poi sai che tanto, puff. Te come fai, ragazzo, la chitarra? Un caffè. Prendiamo un caffè. Un caffè ancora si prende, ragazzi. Certo, è un la cena no, la cena è già... No, la cena già vuol dire che... Impegnativa. Si fa qualcosa. È intelligente. È una storia d'amore. O c'è il dopo cena, oppure... O è una storia d'amore. Cioè, ci tengo veramente a quella ragazza. L'invito a cena non è mai... La cena viene dopo il caffè, l'aperitivo. Esatto. Non capito. È il terzo incontro. Tu accetti un invito a cena, ragazza, con la chitarra? Nessuno invita a cena, come vai? Perché uno ti dovrebbe invitare a cena per mangiare, mangia anche a casa sua, per parlare, la sera serva. L'invito a cena è sempre prelude comunque a qualcos'altro, questo è logico. Tu è intelligente, ti invita a un caffè, tu dici caffè neutro, terreno certo. Neutro. E intanto stringe, tac, primo girone già superato. Poi aperitivo, tac, secondo girone. Poi fa finta di niente, poi la cenetta, così che ci è casa viene. Base di solito. Casa base, intendi. Casa base. Cioè. Vabbè, in gergo, io non voglio essere materialista, però sì, in gergo è così. E lì succede qualcosa dopo cena nasce una storia dopo la cena. Se lei ti dice di no dopo la cena, te che farà? Richiami? Beh, no. C'è andata. Beh, certo. Beh, il no vuol dire, cioè, se una persona vuole magari... l'altra... Quando uno ti invita a cena, tu già ci leggi dietro qualcosa. Può esistere l'invito a cena? Guarda, ti posso dire la verità, per me un caffè o una cena non fa la differenza psicologicamente. No, non fa la differenza psicologicamente. Non è la cena che mi intimorisce o il caffè che mi fa dire sto più tranquilla. Ma no, tranquilla, la cena è una cosa più impegnativa, perché si finisce che è tardi. A me è impegnativo, cioè impegnativo nel senso a livello psicologico, è sia un caffè che una cena, perché ci vediamo e se tu mi piaci, per me quel tempo comunque mi fa venire comunque l'ansia lo stesso, nel senso ovviamente positivo. No, perché tu dopo il caffè dici adesso torno a lavorare, cioè a fare delle cose. Vabbè, anche quello dopo è vero, cena, non ci ho pensato. O te ne vai a casa tua o vai a casa sua. Vabbè, sai, ti dico, cioè se mi piace chi se ne frega, cioè, andiamo a cena insieme. Ci deve essere un codice condiviso, no? Sì, no. Se invece magari non mi piace molto così, dico... Quando glielo fai capire? Già al secondo o... Aspetti, se non mi piace... Aspetti la fine, cioè il caffè poi... Ha un atteggiamento che, insomma, vabbè, ciao, grazie della cena, ciao. Senti, ragazzo, la chitarra, quando tu ti accorgi, se arrivi a questo passo definitivo della cena, che la cosa non imbrocca già al secondo, che fai? Ordini il dolce o se no cerchi di stringere e te ne vai? No, ordino il dolce e finisco, insomma. Fai il signore. Faccio il signore. Però non sì. È giusto. Magari perché ci nasce tutti un'amicizia. Con il timer. Di perdere tempo, ha capito che ormai non è roba. Perdere tempo. Un conto è che uno dice: guarda, mi piaci, ci rivediamo, glielo fai capire, però stasera ciao. Sì, ma al secondo incontro uno già capisce se c'è un minimo di interesse. Vedi, c'è il timer. Ma no, ma non è così nella vita, perché siamo tutti impauriti da tutti. Pure i ragazzi, gli uomini, sono impauriti dalle ragazze. Quando fai vedere che gli piace. Non è il caso del ragazzo con la chitarra. No, in questo caso no, infatti. Il momento potrebbe essere una fortuna, il mio treno fortunato. Oppure non lo so, chissà. Vabbè, io a questo punto, visto che si sta avvicinando la mia stazione, farò un gesto eroico. Scendo e vi lascio soli. Hey sister, sorry. It's really nice to meet you. I just met the seventh father's guy, was just my type. Love the way he's speaking. His confidence is speaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath them. No and bitter I am. I heard that Cali never rains and knew you had to wait. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Mi lascio alle spalle una tenera storia d'amore. Due ragazzi sono incontrati e li ho lasciati mentre si solleticano a vicenda con la loro musica. Ed entro in un girone infernale. Entro in uno scompartimento dove è tutt'altra aria. Dove le persone sono pronte a raccontarmi cose che non sono forse adatte alle orecchie di in questo momento ascolta e a bambini in macchina. Prego di allontanare le caste orecchie dall'apparecchio radiofonico soltanto per il tempo che passa tra una stazione e l'altra, perché questa è una stazione infernale. Ci sono uomini che si fanno impiantare derma di maiale nel loro attrezzo virile per aumentarne le dimensioni. Sembra essere uno degli interventi oggi più diffusi per colmare le depressioni che suscitano i confronti sotto la doccia, sempre più frequenti perché i maschi, talmente narcisi da sottoporsi alla porcina trasfusione, evidentemente passano molto del loro tempo in palestra, dove le collazioni tra le rispettive misure sembra siano inevitabili. C'è una sorta di fatale monito in quel succedaneo suino che dovrebbe contribuire a rafforzare la sicurezza del maschio, fargli quindi recuperare qualche centimetro d'orgoglio per potersi sentire finalmente porco. È logoro detto comune che del maiale non si butti via nulla. Di sicuro l'antica saggezza agreste non contemplava certo l'uso improprio di quel rotolo d'arista che promette il 30% d'aumento dell'armamentario mascolino in cui si è intromesso. La Società Italiana di Chirurgia Genitale Maschile, SICGEM, ha promosso in Roma un incontro tra esperti e media per diffondere la notizia della nuovissima tecnica dell'ardellamento virile. Pare che il derma di maiale, una volta lavorato a dovere, abbia una consistenza naturale e offra maggiori garanzie di comfort e naturalezza al paziente rispetto al grasso prelevato dai suoi glutei, che era solitamente usato in questo tipo di interventi. Prima di diffondere con enfasi tale notizia, forse sarebbe meglio valutare l'impatto che potrebbe avere sulla popolazione femminile, che sarebbe indotta a maturare diffidenza nei confronti di possibili partner, in parte maiali. Inimmaginabile l'onda del sospetto che potrebbe levarsi verso ogni incolpevole amante. Quale insondabile e atroce diffidenza accoglierebbero colei che sospetta dell'eventualità di un chimerico assemblaggio porcellesco. Sulla soglia del naturale compimento dell'amoroso incontro, ogni sospiro passionale le suonerebbe sinistro come un grugnito. La notizia del magico medicamento aumentativo a base di strutto suino me l'ha data il signore, che sembrava informatissimo su tutti gli artifici perché il connubio fisico abbia un maggiore appeal, piaccia di più. Questo signore, mentre mi parla, tiene a tutto volume il suo smartphone, attraverso cui sente una musica orribile, ma probabilmente lo fa perché le sue parole hanno un senso vergognoso per lui stesso. Mi racconta, in sintesi, che un giorno prese la fidanzata e la portò, non si capisce per quale arcano motivo, in un luogo di ammucchiate. Mi chiamo Fabrizio e ho 30 anni. Per necessità faccio il cuoco, mentre il sogno che ho la cassetta è quello di poter fare il musicista. E questa esperienza è nata proprio perché poteva verificarsi la possibilità di lavorare all'interno di un locale che appunto faceva scambio di coppia. Ero stato, diciamo, consigliato da un contrabbassista che aveva lavorato per questo locale per qualche mese e era andato appunto a fare un intrattenimento musicale con una sorta di regolarità. Questa cosa chiaramente mi allettava dal punto di vista lavorativo e quindi sono andato con la mia ragazza a vedere l'ambiente e la situazione. E mi sono trovato di fronte a questa realtà che comunque ignoravo, cioè sapevo dell'esistenza di locali di questo tipo ma me li immaginavo comunque più pudici, tra virgolette. Questo locale si trova fuori città, alle porte di Roma, è una villa, diciamo, che ha circondata da una tenuta e devi passare per una sorta di reception dove comunque lasci i tuoi dati, i documenti e automaticamente ti iscrivi a questo che è un club fondamentalmente. Da qui hai il libero accesso a una sorta di discoteca, perché il principio del locale è comunque quello di un locale di intrattenimento dove intorno alla pista dove ci si dovrebbe ballare ci sono delle altre stanzette diverse dove invece che ballare le persone si appartano e hanno la libertà di fare quello che comunque si sentono di fare. Sono entrato, ho dovuto, diciamo, iscrivermi a questo club e poi mi sono guardato intorno aspettando che la titolare ci ricevesse per la chiacchierata che gli avevamo chiesto. Ho passato un po' di tempo al bar e poi c'è la curiosità, comunque ti trovi in questo ambiente e ti lasci prendere da dalla curiosità di vedere che cosa succede all'interno di un posto del genere, anche perché non mi era mai capitato prima. Ho visto sicuramente tanta gente, molta più gente di quella che mi aspettavo, e ho visto una grossa disparità tra le coppie e i singoli, nel senso che ho visto tantissimi uomini da soli e alcune coppie, e automaticamente c'è un atteggiamento abbastanza assatanato nei confronti della situazione che stanno vivendo, perché li vedi in gruppo a girare all'interno delle stanze, a cercare di infilarsi in situazioni che magari sono soltanto di coppie che hanno il piacere di farsi guardare la loro intimità, che si trovano invece magari un po' disturbate o dagli sguardi o dagli atteggiamenti non proprio così pudici di alcuni uomini di tutte le età che gli stanno intorno. All'interno di questo locale ci sono delle stanze che sono delle piccole stanze d'albergo dove persone, penso coppie assodate, avere rapporti sessuali come se fossero nel salotto di casa loro. Mentre poi ci sono altre due stanze che sono per il sesso di gruppo. Chiaramente all'interno di queste situazioni di scambi di coppia e sesso di gruppo puoi accedere a queste stanze soltanto se sei accompagnato dalla tua fidanzata o dalla persona o da una donna, cioè puoi entrare soltanto in coppia. Per vedere non c'è nessun tipo di problema, nel senso che queste stanze sono comunque, hanno comunque un accesso a vista e sono strutturate in modo che il palcoscenico sia a letto o una zona comoda dove comunque tu puoi praticare tranquillamente il sesso che vuoi, e tutto intorno ci sono degli spazi dove le persone, dai singoli alle coppie, possono guardare, controllare e incuriosirsi o farsi stimolare da questa cosa. Tant'è vero che ci sono coppie che guardando altre coppie si decidono ad entrare in queste stanze, o singoli che tristemente se stanno solo a guardare sognando di essere dentro queste stanze. Mentre il mio amico parla e racconta, fiero e pudibondo allo stesso tempo, mi domando cosa mai lui si aspettasse di trovare in un locale per scambisti. È strano e singolare, la gente ci va sapendo esattamente, oggi c'è un'informazione capillare di tutto ciò che accada in posti come questi, su cui va la gente quando è attratta da un particolare tipo di incontro amoroso. È bello che poi sta lì e si accorge che in realtà ci sono persone che fanno maialate. Ma cosa si aspettava di trovare? Si aspettava di trovare delle croce rossine? Si aspettava di trovare dei boy scout? Si aspettava di trovare un gruppo di penitenti? Si aspetta di trovare, sì, quello che naturalmente cercava. E se ci ha portato la fidanzata, evidentemente aveva un disegno in mente. Tutto sommato sono probabilmente più coerenti con il loro disegno le persone che li vanno, poi si ammucchiano, poi si affocano, presi dal demone carnale, poi si ammonticchiano, poi si riducono a un livello di pura naturalità, di infima bestialità, chiamate come volete. Questo signore ci va compito, finto distaccato, finto ingenuo, ci porta la fidanzata che, poverina, non osa andare oltre il vestibolo del cerchio infernale, si ferma lì seduta al bar, bevendo, mentre il suo uomo era dentro, occhieggiava e teneva le distanze di ciò che lui diceva che gli facesse schifo. Cosa ho visto? La bestialità. Mi immaginavo vedere un clima goliardico. E sai che goliardia? Portar lì la moglie e guardare gli altri che li montano sopra. Sai che c'è di goliardico, di divertente. Ci va chi evidentemente, e questo giudica interessante, ma saranno fatti i suoi. Che poi la ragazza abbia sollevato i tacchi e se ne sia andata è l'esito naturale, normale. Lui sarà uscito con gli occhi lucidi e gonfi, sarà uscito con delle occhiaie segnate, sarà uscito pieno di voglie e desideri repressi e avrà capito che probabilmente dovrà trovarsi un altro fidanzato. Le mie sensazioni all'interno sono state abbastanza discordanti, nel senso che in partenza chiaramente ero abbastanza curioso e quindi divertito dall'ambiente. Non ti nascondo che il divertimento è passato dopo 2 minuti, nel senso che immediatamente mi è venuta sinceramente un po' di tristezza, perché l'impressione di base che ho avuto è che le coppie fondamentalmente sono delle coppie che probabilmente non starebbero più insieme in un altro periodo storico, ma stanno insieme semplicemente per la comodità di starci e si inventano escamotage per poter continuare ad essere una coppia, ma vivere una sessualità e comunque un'intimità che non ha più il rispetto della coppia. Sinceramente non ho provato né imbarazzo né schifo, ho provato un po' di tristezza proprio perché mi sono trovato di fronte a un paio di situazioni o a comunque due coppie in cui era palese la differenza di atteggiamento nei confronti di questa cosa da parte dell'uomo e della donna, nel senso che l'uomo era molto propenso ad avvicinarsi a queste possibilità di scambio di coppia o a mostrarsi nella sua virilità, mentre le donne, non ti nascondo che in un paio d'occasioni ho visto proprio persone che, non dico erano forzate fisicamente a fare una cosa, ma erano comunque proprio tristi a dover condividere questa cosa con il proprio uomo, nel senso che si vedeva proprio un atteggiamento da testa bassa e da sorrisi proprio dimenticati da tempo. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. La mia fidanzata si è spaventata. La mia fidanzata si è proprio spaventata, nel senso che ha forse visto la bestialità maschile. E non ti nascondo che per una mezz'ora del tempo passato lì dentro si è accomodata, diciamo, alla reception, che è l'ambiente ancora più sterile e tranquillo di questo locale, e non ha voluto nemmeno mischiarsi, ma proprio nei contatti o negli sguardi con queste persone, perché era infastidita. Non ti nascondo, infastidito anch'io, pur essendo una persona che comunque ha una veduta abbastanza larga delle cose, e quindi mi trovavo infastidito proprio per la cacca, la ressa, la foga che comunque si metteva in una cosa che io mi immaginavo molto più goliardica e invece mi sembrava molto più istintiva e da branco. Però ti ripeto, forse è stata solo una mia impressione, forse è stato soltanto un caso specifico nella serata. Il treno va. Per non tradire una consuetudine ormai acclarata, questa volta non do spazio a uomini, ma nella parte dedicata comunque allo sfogo amoroso, sentimentale, relazionale, chiamatelo come volete, do spazio a una donna single. Ma una donna single, la maggior parte delle donne oggi sono single, se non lo sono anagraficamente, se non lo sono dal punto di vista dello stato civile, e se non lo sono comunque nella convenzione sociale, lo sono interiormente, intimamente. Questa donna mi ascolta molto spesso e si è fatta coraggio e mi racconta quella che è una vicenda, ahimè molte volte ascoltato, una single che per un attimo, probabilmente fugace, sente il peso della sua condizione. Perché? Perché incontra un uomo che potrebbe mettere a repentaglio questa sua ferrea decisione o questa sua accettata consuetudine di vivere sola. Caro Gianluca, aspetto sempre con una certa curiosità la domenica mattina per ascoltare l'ultima parte del tuo programma dedicata alla lettura e soprattutto al commento delle storie che ricevi in settimana. Ti dico subito che il tuo approccio, sempre così carico di pragmatico cinismo, un po' mi diverte, un po' mi lascia insoddisfatta, perché penso che molto spesso le sfumature nei fatti di cuore contano e come. Oggi prendo coraggio e decido di sottoporti anche la mia vicenda recente, pur sapendo già che la ridurrai alla solita banale, inguaribile, eterna, illusoria ricerca dell'amore puro da parte del genere femminile. Ho 27 anni, vivo da sola e sono single da un anno, dopo una relazione abbastanza lunga. Prima ancora, storie varie con uomini anche molto più grandi di me. Non amo troppo i miei coetanei, che mi sembrano o troppo insicuri o troppo prevedibili. Questo non mi ha impedito di vivermi storie anche solo di sesso, soprattutto in questi ultimi mesi. Ti dico la verità, dopo 3 anni di convivenza mi sono proprio divertita a corteggiare ed essere corteggiata. Ma ho quasi sempre optato per l'opzione patti chiari, amicizia lunga. Non volevo legami. Questo andazzo sarebbe probabilmente proseguito se non mi fosse successo l'inatteso 10 giorni fa. Lavoro in una società di consulenza legale e ho passato un'intera giornata con un cliente quarantenne che non avevo mai incontrato prima, per discutere di una sua causa che riguardava il diritto d'autore. Niente di eccitante, dunque, ma alla sera, tornata a casa, mi sentivo più leggera, contenta, senza le solite preoccupazioni, libera dalle incombenze del quotidiano e via dicendo. Il giorno dopo mi sono svegliata col pensiero rivolto al giorno precedente e a quest'uomo con cui ho passato 6 ore senza nemmeno accorgermene. Abbiamo discusso, abbiamo riso e scherzato, cose che evito sistematicamente di fare per non dare ai clienti la sensazione di scarsa professionalità o, peggio, per non lanciare messaggi equivoci che gli uomini fingono sempre di ricevere appena vedono 2 tacchi. E nel corso della mattinata la mia fissazione non si è attenuata, anzi, è peggiorata. Continuavo ad avere l'immagine di lui, del suo sorriso, delle sue mani, la sua voce. Non posso nemmeno dire che sia di chissà quale bellezza, ma tant'è. Ora mi sento come un'adolescente inebetita dal primo amore. Come diceva quella canzone, io non dormo e penso a te, io non mangio e penso a te, torno a casa e penso a te. Non so se hai provato anche tu queste cose e a quale età. Se capita di infatuarsi, ma capita continuamente, capita a chiunque, capita in 1000 occasioni, anzi, oggi è molto più facile che capiti rispetto al passato perché sono infinitamente più le occasioni che abbiamo di conoscere persone, di lambire persone, di incontrare persone e le occasioni che sono quelle banali di lavoro, di incontro, di casualità, di frequentazione, di amici degli amici o amiche delle amiche. E naturalmente c'è sempre l'idea che ci sia una maggiore libertà espressiva, una maggiore possibilità di superare quelle che sono le convenzioni, quindi capita comunque di pensare in maniera diversa, di approfondire un pensiero, di avere voglia di lasciarsi andare o di lasciarsi andare. Quindi penso che capiti a tutte le latitudini, a tutte le età, capita all'interno di noi, per molte persone capita in un'area intermedia che in parte viene condivisa e in qualche maniera raccontata, espressa, comunicata questa particolare attrazione, o in molti casi, nei casi probabilmente più frequenti, rimane come un boccone rimandato indietro, è come qualcosa che probabilmente ci attraversa, ma da cui non ci lasciamo cambiare o non ci lasciamo scombinare la vita. Uno fa sempre un bilancio. Vale la pena comunque di scombinarsi la vita, di mettersi a repentaglio la propria serenità, tranquillità, la propria situazione? A volte sì, a volte no. C'è chi rischia, c'è chi non rischia e vive tranquillo. Non ho resistito ovviamente dal ricontattarlo su Facebook e da quello che mi ha scritto. Mi sembra proprio che anche lui provi qualcosa e ci vedremo presto. Sono tesa come una corda. Ora mi ritrovo a vagheggiare ad occhi aperti, come una ragazzina, scene da film, momenti di passione incontenibili, noi due al mare o in viaggio o a cena fuori, insomma, tutte quelle tremende situazioni che soltanto 2 settimane fa mi avrebbero fatto venire l'orticaria. Certo, dall'esterno è facile sminuire il mio inebetimento, però io ti chiedo, devo per tutto questo sentirmi ridicola? Devo considerarla come una mia esigenza di fuga domestica, come le definisci tu? Ma seppure fosse un'illusoria infatuazione, perché non dovrei assecondarla? Alla fine, ogni nostro atto ha sempre una motivazione psicologica, va sempre a colmare un bisogno, se ci pensiamo. E allora? Se questa cosa mi fa sentire viva e piena di energie, perché la dovrei rifiutare? Perché il pensiero che l'amore non è mai eterno mi dovrebbe frenare? Se uno dovesse pensarla sempre così, non dovrebbe viversi mai nulla di quello che prova. E io invece preferisco vivere. E sono tra quelli che pensano che sia sempre meglio rischiare di vivere una cosa e poi magari pentirsi di averla fatta, piuttosto che vivere con il rimpianto di non averci nemmeno provato. Loredana. Diciamo la verità, cara viaggiatrice, ascoltatrice, single, che ormai ha un'età che si avvicina all'età della ragione, visto che per le signore l'età della ragione arriva molto prima che per noi maschi, il fatto di seguire una sorta di istintuale attrazione per un'altra persona, al momento che tu già gliel'hai comunicata, lasciandogli un messaggio su Facebook, gettando quel ponte equivoco ma molto facilmente perseguibile come porta verso universi probabilmente gratificanti o paurosi o terrificanti secondo il punto di vista, o come grimaldello per scardinare comunque l'ambiguità di una relazione sospesa, tu già hai fatto un passo avanti, quindi hai già preso la tua decisione. Lasciarti andare a una storia di innamoramento, di infatuazione, quando sai già che potrebbe non essere corrisposta, quando sai già che potrebbe essere soltanto una piccola avventura, quando sai già che potrebbe essere soltanto una grande delusione, apri il tuo cuoricino innamorato e dimostri al tuo uomo, a questo signore con cui sei stata 6 ore senza annoiarti, senza aver voglia di fuggire, e probabilmente questo rappresenta un'eccezione alla tua vita, beh, cosa pensi di poter fare? Beh, io mi lascerei andare se fossi in te. Non hai famiglia, non hai figli, non metti a rischio niente se non la tua virtù, che mi sembra già abbastanza sufficientemente ormai collaudata per poter essere ancora una volta rimessa in gioco su qualcosa che forse vale la pena, perché stiamo parlando di amore, stiamo parlando di pura e distruttiva passione. Lasciati andare, cosa ci rimetti? Tutt'al più avrei messo un'altra tacca nel tuo Winchester, tutt'al più avrei provato un'altra volta, tutt'al più avrai, perlomeno in un'età molto più avanzata che ti auguro di raggiungere nel pieno possesso delle tue facoltà fisiche e mentali, un ricordo in meno e un rimpianto in meno da doversi macerare l'animo per dire: ah, quella volta io probabilmente non colsi quelle rose. Chi ha detto che ama le rose che non colse ha detto una baggianata. Le rose che non cogliemmo non conoscemmo mai, e quindi c'è poco da rimpiangere, c'è poco da amare. Vanno colte tutte le rose, fatto un bel fascio, poi magari buttate nel gabinetto. Dalle sciotocone per sua sur la montagna, del mo macabre a del buon che il sombro un bagno, le barone giù a carte bua sec, la marchise sorcière du village, la Diane, oui je viens bientôt, je viens pourquoi? Parce que Mr. Smith sa bien moi, pour toi je chanterai tous mes pauvres frères.